Nagorno-Karabakh, firmata la pace, ma quanto durerà e a quale prezzo? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The deal comes after 6 weeks of relentless fighting. It was first announced in a Facebook post by Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan. Within minutes, confirmation came from Azerbaijan and Moscow. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp, cercateci anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Oggi faremo un punto, in vero particolarmente approfondito, sulla pace che è scoppiata in Nagorno-Karabakh, la repubblica autoproclamata. Era stata al centro di violentissimi scontri già venerdì e giovedì della settimana scorsa. Vi raccontavamo l'offensiva azera che stava arrivando alle porte di Stepanakert. Shushi, la città, sarebbe caduta secondo Baku, ma vi faremo sentire le voci da Yerevan che contestano questo attestamento, questa presa di posizione da parte degli azeri. Perché torniamo a parlare del Caucaso? Perché due grandi potenze hanno messo lo zampino su questo conflitto che è stato per anni a bassa intensità e nelle ultime settimane è esploso con violenza. Turchia e Russia, che sostanzialmente si faranno garanti, soprattutto la seconda, di questo cessate il fuoco. Tra pochissimo vi racconteremo tutti i dettagli di una zona che è cruciale e importante per due motivi. Primo, è alle porte d'Europa. Secondo, i grandi attori internazionali che vi ho citato ci hanno messo le mani sopra. Aggiungerei un terzo motivo, che è quello energetico. La sicurezza energetica per i due grandi canali, uno del gas e uno del petrolio, passano proprio da lì. 349-238-6666 per voi. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta immediatamente, per darvi le ultimissime, dagli Stati Uniti, perché Trump ha silurato Mark Esper, capo del Pentagono. Il ciò avviene a un anno e mezzo dall'altro siluramento, quello di James Mattis. Però nel frattempo incassa l'ok di William Barr, procuratore generale, come se fosse il ministro della giustizia, che ha autorizzato il Dipartimento di Giustizia americano a indagare su, virgolette, leggo testualmente, accuse rilevanti di frode elettorale prima che gli stati però certifichino i risultati nelle prossime settimane. Sostanzialmente un'indagine federale che va a sovrapporsi e forse a, come dire, pestare i piedi a quelle che sono le indagini nei singoli stati. Da ciò la reazione di alcuni esponenti della politica, ma anche della giustizia statunitense, non sono tardate. Per esempio Richard Pilger, che è il principale procuratore del Dipartimento di Giustizia proprio per i crimini elettorali negli Stati Uniti, si è dimesso per protesta, perché sostanzialmente dice che questa concessione al Dipartimento di Giustizia, cioè scatenare un'indagine federale in questo momento, è assolutamente irrituale, non è mai avvenuta negli ultimi 40 anni e i singoli stati hanno gestito autonomamente la verifica di eventuali frode. Il fronte democratico si compatta, o quantomeno lo staff, il team di Joe Biden, che non esclude di intraprendere azioni legali contro l'amministrazione Trump, perché l'accusa questa volta è di ostacolare in maniera illegale l'avvio del processo di transizioni. Lo riportano alcuni media statunitensi citando fonti proprio del transition team del presidente eletto, che parlano di diverse opzioni sul tavolo. È inutile sottolineare come se questo limbo conflittuale, anche dal punto di vista legale, dovesse continuare, lo stesso apparato della vita quotidiana degli statunitensi potrebbe evidentemente risentirne. Così come ne risente sicuramente la percezione di ciò che sta accadendo di molti cittadini statunitensi. Vi faccio notare che dopo Twitter e YouTube, anche Facebook ha rimosso dei falsi profili che stavano promuovendo la tesi repubblicana, nonché quella di Donald Trump, di frodi elettorali avvenute da parte democratica. Ecco, tutti quei profili erano riconducibili all'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon. La denuncia arriva dall'ONG Avaaz, secondo la quale Facebook ha rimosso 7 pagine direttamente collegate a Steve Bannon, che avevano raccolto, pensate, in totale 2,45 milioni di abbonati e che l'organizzazione aveva segnalato alla piattaforma venerdì scorso. E poi andiamo in Palestina, perché è morto Saeb Erekat, diplomatico, consigliere, morto a 65 anni, era stato ricoverato settimane fa a causa del Covid-19, aveva serissimi problemi di salute, era stato sottoposto a un trapianto di polmoni nel 2017. Classe 55, veterano della negoziazione, per oltre 3 decenni aveva guidato la diplomazia palestinese in quel faticoso processo che poi si è quasi sempre arenato. Sto pensando alla conferenza di Madrid del 91, agli accordi di Oslo nel 95. Certamente una medaglia riuscì ad appuntarsela sul petto Erekat quando riuscì a far riconoscere la Palestina come paese osservatore da parte delle Nazioni Unite. E poi arrivano notizie di guerra dal continente africano. La prima arriva dal Mozambico. Media statali hanno riferito che più di 50 persone sono state decapitate da miliziani islamisti in 3 giorni di violenze nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Abbiamo spesso raccontato quella zona, è una zona anche ricchissima di postazioni petrolifere. Il Mozambico sta vivendo negli ultimi mesi quella che è l'angoscia e lo spettro di una formazione jihadista, Al-Sunna Wajamma, che è affiliata allo Stato Islamico, e questo in qualche modo, come vi abbiamo raccontato, va a corroborare la tesi secondo molti osservatori che nella zona del Sahel, ma anche più giù andando verso il Mozambico e verso l'Oceano Indiano, si stia in qualche modo consolidando una nuova realtà riconducibile allo Stato Islamico, che approfitta della vulnerabilità dei governi, della fragilità degli eserciti e della porosità dei confini. Gli jihadisti avrebbero attaccato vari villaggi in alcuni distretti, uccidendo persone, sequestrando donne, bruciando case. Secondo le fonti riportate da BBC Africa, in un villaggio in particolare i miliziani avrebbero trasformato un campo di calcio in un campo di esecuzioni, decapitando e facendo a pezzi i corpi degli abitanti. Le violenze, vi dicevo, durano da parecchio. Dal 2017 almeno 2 persone, secondo varie fonti, sono rimaste uccise, mentre sono a questo momento 430.000 gli sfollati. Vi segnalo anche che il governo mozambicano ha chiesto aiuto alla comunità internazionale per poter fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza, cosa che già accade se consideriamo l'operazione francese Barkhane nella zona più a nord, quella strettamente della fascia saheliana. E poi in Etiopia abbiamo dedicato ampio spazio a quelle che sono le sfide del premier Abiy Ahmed, già premio Nobel per la pace, è costretto però a imbracciare le armi, o meglio a far imbracciare le armi al suo esercito federale dopo le insurrezioni, per così dire, da un lato come dire, hanno alzato la testa nel Tigray andando a indire delle elezioni che non erano state consentite da Addis Abeba, e poi l'attacco di una milizia collegata proprio al Tigray che avrebbe attaccato una base federale. La reazione di Addis Abeba si è fatta particolarmente violenta. È molto difficile, e questo è un aspetto drammaticamente interessante, avere fonti di prima mano, perché sostanzialmente quella zona dell'Etiopia è praticamente off limits per i giornalisti, e sembra che Abiy Ahmed stia minimizzando l'entità degli scontri. Secondo alcune fonti diplomatiche citate dalla Associated Press si parla di almeno centinaia di vittime. E poi c'è un dettaglio, che dettaglio in realtà non è: l'agenzia di stampa sudanese Suna ha riferito che almeno 30 soldati etiopi e un gran numero di rifugiati sono in fuga dai combattimenti e hanno attraversato il confine con il Sudan. I soldati hanno consegnato le armi e hanno chiesto protezione mentre appunto i combattimenti continuavano a infuriare sul confine. Il governo sudanese su quel confine ha inviato oltre 6.000 soldati, ed è evidente a questo punto che i timori di alcuni analisti di una regionalizzazione del conflitto, un allargamento e un'escalation, sia a questo punto, non dico realtà, ma uno spettro che si sta concretizzando. Questi sono i nostri dossier internazionali, aggiornamenti sui fatti più rilevanti che vi raccontiamo ogni giorno, oppure spunti per le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. A questo punto però andiamo in Nagorno-Karabakh. Questa è la nuova sanguinosa guerra in Nagorno-Karabakh. La regione è ufficialmente parte dell'Azerbaigian, ma è guidata dai separatisti armeni. Molti video mostrano la distruzione che viaggia nell'aria, i droni che puntano alle armi armene e ai convogli militari. Il presidente turco Erdogan promette di intervenire a favore dell'Azerbaigian. Il Parlamento sostiene che l'intervento turco rischia di destabilizzare la regione. Il 9 novembre il presidente dell'Azerbaigian, il primo ministro armeno e il presidente della Federazione Russa hanno firmato un accordo che sancisce il completo cessate il fuoco. Così la nostra copertina, curata da Valentina Ternullo e Roberta Frisani, per andare dritti al cuore della puntata di quest'oggi A Nessun Luogo È Lontano, e per andare ancora più dritti nel racconto di quello che sta avvenendo non soltanto in Nagorno-Karabakh ma anche nelle due capitali, Baku e Yerevan. Andiamo immediatamente a Yerevan, lo facciamo con Luca Steinman, giornalista freelance che ha da poco lasciato il Nagorno-Karabakh, lo avete sentito a questi microfoni, e adesso è invece nella capitale armena. Luca, buongiorno e ben ritrovato A Nessun Luogo È Lontano. Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti. Allora, e pace fu, qualcuno direbbe la pace è scoppiata, è stato dato l'annuncio anche da Vladimir Putin. Ci puoi sintetizzare quali sono gli estremi di questo accordo di pace, e poi ci racconterai come a Yerevan una fetta della popolazione assolutamente non è contenta di questi accordi di pace? Sì, di fatto si tratta di una sconfitta per l'Armenia, perché si tratta della cessione di ampie fette di territori del Nagorno-Karabakh al nemico azero. L'accordo prevede che tutti i territori che sono stati conquistati sul campo di battaglia dagli azeri e dalle truppe straniere che li supportavano rimangano sotto la giurisdizione, sotto il controllo azero. Al contempo due altre regioni che si trovano per adesso ancora sotto controllo armeno verranno cedute entro il 20 novembre prossimo all'Azerbaigian. E non solo, il punto più doloroso per gli armeni, forse uno dei punti più dolorosi, è il fatto che il piccolo territorio del Nagorno-Karabakh, che rimarrà popolato da armeni, si tratta di fatto della città di Stepanakert, della zona adiacente e del territorio che collega questa zona all'Armenia, non sarà più di fatto sotto giurisdizione armena bensì russa, perché a partire da oggi stanno entrando delle missioni, dei convogli di militari russi in questa parte di popolazione, in questa parte di territorio, che garantiranno sì la presenza armena, la presenza del popolo armeno, ma si impegneranno anche nell'arco dei prossimi 5 anni ad evacuare ogni forza armata armena dal territorio. Quindi se ci sarà in Nagorno-Karabakh una piccola parte di territorio in cui gli armeni ancora vivranno, questa di fatto non sarà più sotto sovranità armena. La voce che state ascoltando, il racconto, arriva da Yerevan, la capitale dell'Armenia, la voce è quella di Luca Steinman, che fino a poche ore fa sostanzialmente si trovava in Nagorno-Karabakh a raccontare anche per noi quello che stava accadendo, peraltro Luca con una rocambolesca fuga, evacuazione di buona parte dei civili e buona parte della stampa internazionale nottetempo e poi in Armenia, appunto, dove sei arrivato. Una volta a Yerevan hai raccolto un po' di voci, perché non abbiamo raccontato agli ascoltatori che quella fetta di popolazione che ha mal digerito questi accordi di pace si è fatta sentire, e come, davanti ai palazzi governativi, ma addirittura sostanzialmente invadendo i luoghi del potere di Yerevan. Tra poco ci racconterai i dettagli e che aria tira nella tarda serata di Yerevan, ma intanto vi facciamo sentire un po' di voce che Luca ha raccolto. La prima di Aratunian Amasas, veterano della guerra del 94, 52 anni, sentite con quanto dolore e con quanta partecipazione racconta e esprime il suo punto di vista, sentite. Abbiamo versato il nostro sangue in Nagorno-Karabakh. Per questo motivo il popolo armeno si sente completamente tradito dal presidente. È stata una decisione non democratica che ha ignorato completamente il parere e il volere degli armeni. Da un momento all'altro è stato deciso di concedere al nemico la terra dove abbiamo versato il nostro sangue, e questo è inaccettabile. Questa decisione è stata presa mentre i soldati dell'Artsakh stanno ancora combattendo e continueranno a combattere sulla terra per la quale hanno sacrificato tanto, indipendentemente dalla decisione del governo. In queste frasi di Aratunian Amasas, quasi le voci più del militare o dell'ex militare, poi però parla forse con gli abiti più civili, sentite adesso. I'm protesting the signed declaration. Sono qui per protestare contro quello che sta succedendo. Quello che sta facendo il nostro cosiddetto primo ministro è del tutto sleale ed è completamente inaspettato. Non ha il diritto di accettare questo accordo perché nessuno gli ha fornito una delega per farlo. Il primo ministro Nicole Pashinyan non è la persona che ha preso il controllo di quei territori, non li ha mai protetti. È solo qualcuno arrivato al potere dopo un'ondata popolare. E questo è tutto. Sto protestando perché questa dichiarazione di pace non è nell'interesse dell'Armenia ed è stata forzata da potenze straniere, cioè dalla Russia e dalla Turchia, che hanno entrambe diversi affari in Azerbaigian. Hanno venduto la nostra terra per il petrolio. Questa è l'unica verità. Questa decisione deve essere ritirata. Non sono un politico, non sono io a guidare questo paese e non sono io a prendere decisioni. Ma al comando dovremmo avere persone che si prendono la responsabilità di questa decisione. Le persone al governo adesso sono irresponsabili. I combattimenti devono proseguire, perché il nostro esercito è in grado di resistere e di contrattaccare. L'Armenia ha mobilitato 500.000 riservisti. Sono stato al Ministero della Difesa e ho chiesto di essere mandato al fronte a combattere. Avrei dovuto essere lì tra una settimana e conosco molti altri nella mia stessa situazione. La verità è che il governo non si è mobilitato, non ha voluto combattere. Si sono solo arresi e hanno abbandonato le nostre terre. 2.000 giovani soldati sono morti per niente. Sono morti per niente perché ci hanno traditi. E questo è tradimento. La voce di Aratunian Amasas, veterano della guerra del 94, 52 anni, parla da cittadino, parla da ex militare, ma da uno che voleva rimbracciare il fucile e si lamenta del fatto che sostanzialmente il governo armeno, in omaggio alla pace appena siglata, complice anche Vladimir Putin, sia stato tradito proprio dal suo stesso governo. Con Luca Steinman in diretta da Yerevan stiamo raccontandovi gli esiti di questo accordo di pace, quanto potrebbe durare e a quale prezzo. E in parte Amasas, la voce che ha raccolto Luca, introduce uno degli elementi, sostanzialmente allude al fatto che si è immolata la causa armena, tra le altre cose anche alla pace ma all'equilibrio energetico, perché ricordiamo il gasdotto importantissimo che passa dall'Azerbaigian, gli equilibri dell'intero Caucaso. Ecco, da questo punto di vista che cosa possiamo aggiungere? È secondo te, come dire, un'ideologia soprattutto che è stata sacrificata in nome della realpolitik di una pace, di una regione che deve stare in pace anche per favorire gli afflussi energetici fino in Europa? Sì, possiamo dire che prima di tutto gli armeni, da quanto ho potuto raccogliere negli ultimi giorni, si sentono generalmente molto abbandonati, abbandonati dal mondo che secondo loro avrebbe dovuto proteggere da questo attacco che hanno subito in Nagorno-Karabakh, e sono abbandonati anche da molte organizzazioni internazionali che non si sono mobilitate, non si sono potute mobilitare per la popolazione civile in Nagorno-Karabakh in queste settimane, per un discorso proprio di tipo geopolitico, perché il Nagorno-Karabakh è sempre stato considerato dalla comunità internazionale come un territorio azerbaigiano occupato da una comunità armena, e quindi il coinvolgimento di organizzazioni internazionali avrebbe creato problemi diplomatici di un certo livello, che quindi hanno di fatto lasciato abbandonata gran parte di popolazione. Sì. Sottolineerei un aspetto molto importante, cioè il fatto che anche in questo caso vediamo il ritorno della Russia e della Turchia come grandi protagonisti geopolitici di questa regione, e non solo di questa regione, perché se di fatto la Russia diventa il grande protettore delle comunità armene del Nagorno-Karabakh e ottiene sovranità militare e politica su questi territori, dall'altra parte è noto che la Turchia sia il grande protettore dell'Azerbaigian. Non è chiaro nell'accordo di pace fino a che punto saranno direttamente i russi e i turchi a negoziare rispettivamente tra di loro sulla gestione del territorio. Certo è che comunque il coinvolgimento della Turchia, se non sarà ufficiale come già lo è invece quello russo, lo sarà certamente di fatto. Quindi siamo di nuovo a una situazione paragonabile a quella del nord della Siria, dove di fatto Russia e Turchia si gestiscono il territorio. E introduce uno degli elementi forse più importanti in questo racconto Luca Steinman, lo ricordo, è in diretta da Yerevan, sta seguendo da parecchi giorni sul terreno quello che sta accadendo. Diciamo, oltre alla diplomazia però si muoveranno anche le truppe, perché ancora non si capisce se la missione di peacekeeping sarà turco-russa o solo russa. Stavo leggendo le ultime agenzie, c'è una dichiarazione di Aliyev, il presidente azero, che dice sarà una missione di peacekeeping congiunta di Russia e Turchia, è un nuovo formato, così ha detto in una videoconferenza con Putin, poi mandata in onda dalla TV di Stato azera, ripresa dall'agenzia Interfax, mentre altre fonti dicono attenzione che i turchi non metteranno piede in Nagorno-Karabakh. Hai qualche conferma nell'uno e nell'altro senso, Luca Steinmann? Esattamente, questo è un punto che non è chiaro. Negli accordi ufficiali non viene mai menzionata la presenza turca sul territorio del Nagorno-Karabakh, che sarà controllato dagli azeri, quindi di fatto ufficialmente la Turchia non sarà presente, ma formalmente perlomeno, mentre la Russia, carte alla mano, accordo di pace alla mano, sarà direttamente presente, come dicevo prima. Sì. Quindi questo mi sembra che sia un po' lo scenario attuale. Sì, ed è uno scenario particolarmente complesso, perché possono anche i nostri ascoltatori facilmente immaginare come una presenza anche militare turca vada a cambiare totalmente gli assetti, soprattutto per il futuro, per equilibri futuri. Luca, hai raccolto anche altre voci di gente che protestava, gente che manifestava, in particolare ci ha colpito la voce di Mariam, 58 anni, che devo dire che non le manda sostanzialmente a dire. Sentite cosa dice. Se il primo ministro non lascia il suo posto, penso che debba essere giustiziato per strada. Sono stati i russi a costringerci ad abbandonare le nostre terre. Non abbiamo mai avuto un vero governo, un vero primo ministro capace di lavorare bene e non farsi corrompere. Questo primo ministro ci sta vendendo. Voglio ribadire che chiunque tradisca la nostra gente, la nostra razza, dopo dovrà temere per la propria vita. Dovrà spaventarsi come se fosse un cane da solo in strada. Alzano la voce gli armeni da Yerevan, alzano la testa, invocano la mandata al fronte di tanti riservisti. Questo è solo un tassello del complicato puzzle che vi raccontiamo quest'oggi, Nessun Luogo è Lontano. Voglio ribadire che chiunque tradisca la nostra gente, la nostra razza, dopo dovrà temere per la propria vita. Dovrà spaventarsi come se fosse un cane da solo in strada. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Ripartiamo da quelle parole violentissime pronunciate da Mariam, 58 anni, una donna armena, Elia Yerevan, protesta per quell'accordo di pace. Addirittura dice che il suo primo ministro dovrebbe essere giustiziato se non dovesse dimettersi. Gli ascoltatori al 349-238-6666, colpiti anche dalla violenza di queste parole, uno su tutti, un WhatsApp. Nelle parole di quella donna vi è un futuro di violenza che durerà per generazioni. Drammatico pensare che i loro figli e i figli dei figli subiscono questi imprinting, e dunque l'odio non cesserà mai. Così Francesco, mentre qualcuno su Twitter, solo i curdi possono capire gli armeni, la Russia ci ha traditi, abbiamo perso Afrin contro la Turchia, e poi chiude dicendo: quando si tratta di curdi armeni, la comunità internazionale è sorda e cieca. Torniamo allora a Yerevan con la voce di Luca Steinmann. A questo punto l'ultima domanda, quella di prassi, diciamo, che si fa il cronista che consuma le scarpe. È sera ormai, ma che aria tira dopo queste proteste che abbiamo fatto sentire? Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che le voci, i toni che abbiamo sentito rappresentano una parte certamente, certo, degli armeni, ma non tutti, e io ho assistito oggi proprio anche dei litigi molto animati tra diverse fazioni di armeni che scendevano in piazza, tutte concordi nel fatto che si tratti di una sconfitta, un'umiliazione, ma non tutte concordi nell'attribuzione delle responsabilità. Ci sono stati per esempio forti momenti di tensione tra i sostenitori del presidente Pashinyan e invece coloro che chiedono la testa in termini politici e alcuni anche non solo in termini politici. Ieri durante la notte, alle 2 di notte, quando è stato annunciato il raggiungimento di questo accordo di pace, quindi della sconfitta, le strade si sono riempite di protestanti, c'è stata un'occupazione del Parlamento armeno, e anche oggi le strade sono state piene sia nel centro storico della città ma anche di fronte al Parlamento, dove manifestanti si sono raggruppati in maniera pacifica a chiedere di non implementare questo cessato il fuoco, a chiedere di non permettere che le truppe russe entrino nel territorio e che, perché questo rimanga sotto giurisdizione e sovranità armena, e a chiedere di fatto di non tradire dal loro punto di vista il sacrificio che è stato fatto dai combattenti che sono morti in queste ultime settimane. Questo è quello. Quindi, che sì, prego Luca, no, concludi pure. Sì, mi sembra un momento molto irrazionale di un vero e proprio di una vera e propria elaborazione di un lutto, certo. Di un lutto che non è ancora ben chiaro come verrà elaborato, ma certamente ho l'impressione che le ferite rimarranno molto a lungo. E ci vuole tempo per lenirle e chissà, forse curarle definitivamente, e chissà se il medico potrà essere lo zar Vladimir Putin o il sultano Recep Tayyip Erdogan. Intanto grazie mille a Luca Steinman da Yerevan, ci ha raccontato quello che sta accadendo adesso nella zona. Luca, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. Grazie, alla prossima. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Fabio da Verona: il primo ministro armeno è stato corrotto a suon di dollari per mollare quei territori. Qualcun altro torna sulla tragica storia degli armeni, molto spesso perseguitati e molto spesso per mano turca. Torniamo allora a chi ha imbracciato le armi. Lo ha fatto sulla prima linea, che nelle ultime ore era la città di Shushi, Shusha invece per gli azeri. Sentite la voce, sempre raccolta da Luca Steinman, di Arthur Grigorian, luogotenente delle forze speciali di Arciak, ultimo leader nella battaglia di Shushi, e che poi nelle ultime ore, dopo aver lasciato la linea del fronte, è stato anche ricevuto in Parlamento. Lui ci racconta, ci dà una fotografia molto drammatica della situazione appunto a Shushi. Sentite. Sono tornato due giorni fa. Ho combattuto a Shushi e Stepanaker. Shushi era parzialmente sotto il nostro controllo. Ci sono stati violenti scontri a fuoco e abbiamo inferto un duro colpo al nemico. Non è vero, come è stato detto, che Shushi è caduta alla fine della giornata di ieri. Noi siamo ancora in controllo di gran parte della città di Shushi. L'esercito armeno controlla solo piccole porzioni della città. Se l'Armenia rimarrà a Shushi, dipende dal primo ministro Nikol Pashinyan. L'attuale accordo è un colpo all'esercito, ma confido che le prossime decisioni, invece, tuteleranno i nostri interessi. Penso che il primo ministro dovrebbe dimettersi e che dovrebbe lasciare il paese. Questo è un tradimento per la nostra nazione. E quando arriveranno i soldati russi, la nostra non sarà una situazione migliore. Non si può accettare questo tradimento operato contro tutti gli armeni. Ed è per questo che siamo qui a protestare. Siamo qui a dire che gli armeni non possono accettare. Non possiamo accettare gli accordi e manderemo via Pashinyan. Per il mio paese, per la mia nazione, sono disposto a fare tutto per mandare via Pashinyan. Se è necessario, siamo anche disposti a infrangere l'accordo e a prendere di nuovo le armi. Questa è la voce di Arthur Grigorian, luogotenente delle forze speciali Arciak, ultimo leader nella battaglia di Shushi. Come avete sentito, evidentemente ci sono anche elementi di propaganda, di narrativa da entrambe le parti. Shushi in realtà non sarebbe caduta. Quello che però sto guardando, per esempio dando un occhio a France 24 e altri network internazionali, si sta creando sostanzialmente un corridoio per una pacifica evacuazione di chi è rimasto e chi voglia lasciare segno che evidentemente la città è quasi totalmente in mano a zero. 349-238-6666. Gianluca da Bologna: gli armeni purtroppo stavano perdendo, sono pochi, sono poveri. La scelta del primo ministro è stata logica. Nelle scorse puntate vi raccontavamo, giusto per darvi un indicatore molto plastico, molto concreto, delle spese militari di Azerbaigian e Armenia. Evidentemente non c'era alcun paragone. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano anche Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice di ISPI, Centro di Studi su Russia, Caucaso e Asia Centrale. Tafuro, buongiorno, ben ritrovata. Salve, buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda è, come dire, un po' geopolitica, però un po', diciamo, va a abbracciare anche quelle che sono le istanze. L'abbiamo sentito dalle voci molto, molto accese della piazza di Yerevan, ha a che fare proprio anche con l'identità, col nazionalismo. si possono fermare le istanze armene, quelle istanze intrise di forte ideologia, di forte identità, ma non corroborate da ma mi corregga se sbaglio, supporto internazionale, e B, soprattutto soldi e armi, perché mi sembra che proprio da questo punto di vista, come ricordavo, non ci sia proprio paragone. Basta la forte istanza nazionalista armena per ribaltare quello che è accaduto? No, non basta, e si è visto. Nicole Pashinyan evidentemente non aveva molta scelta, quella che si trovava davanti era una situazione veramente drammatica, in cui secondo dati ufficiali c'erano quasi 100.000 rifugiati dall'Artsakh, rifugiati che poi si riversavano in Armenia, che ricordiamo è un paese piccolo, sono nemmeno 3 milioni di abitanti. Era una catastrofe umanitaria oltre che una disfatta militare, quindi ricordiamo tra l'altro che l'Armenia sta purtroppo attraversando una fase molto difficile anche per la pandemia del Covid, è un paese povero, come giustamente ricordava il telespettatore. Quindi è evidente che le opzioni di Pashinyan sono molto limitate e che il nazionalismo purtroppo non servirà a molto. Quello che potrebbe però causare è la caduta del governo, di questo governo che era appunto il frutto di una speranza democratica, il frutto di una rivoluzione colorata, la rivoluzione di velluto nel 2018, e che appunto questa guerra può mettere in discussione. Come abbiamo raccontato fin dall'inizio di questa crisi, il conflitto in Nagorno-Karabakh è sempre stato un conflitto che gli analisti definiscono a bassa intensità, magari piccole scaramucce, tensione sempre ai confini, non v'è dubbio, però non era mai sfociato in una guerra così devastante come quella che vi stiamo raccontando nelle ultime settimane. Ad aggiungere complessità c'è evidentemente quello che accade dopo la firma di un accordo di pace. C'è una forza di peacekeeping che ragionevolmente dovrà fare in modo che gli accordi vengano rispettati, ci sarà una ricostruzione, ci sarà la scelta da parte di tanti armeni che vivono in Nagorno-Karabakh sul cosa fare. Questo è un altro aspetto importante, il andare a ridisegnare anche dal punto di vista etnico un territorio conteso è chiaramente una delle leve sulle quali stanno puntando i due attori in campo. Con Eleonora Tafuro Ambrosetti di ISPI proviamo a aprire un altro capitolo, perché Luca Steinman, giustamente le notizie sono quelle, non riusciva a sciogliere la eventuale presenza di forze turche o meno. Dmitry Peskov, quando ha detto, portavoce del Cremlino, non è prevista presenza di truppe turche nel territorio del Nagorno-Karabakh, ha detto però che potrebbe sorgere un centro di monitoraggio del cessate il fuoco, però in territorio a zero. Che cosa sta accadendo esattamente? Cosa stanno facendo Russia e Turchia in quella regione? Sembrano, come dire, ritessere quelle strane relazioni che abbiamo visto in altre zone del mondo, dalla Siria alla Libia, in una nuova complicatissima veste. Ci può aiutare a chiarirla? Esatto, il paragone con la Siria è in realtà molto appropriato, perché Mosca evidentemente deve fare i conti con un ruolo della Turchia molto, molto aumentato, rinforzato nella regione, e quindi deve necessariamente tenere in considerazione il ruolo e gli interessi turchi. Per la risoluzione del conflitto in Nagorno-Karabakh può replicare alcune delle formule che sono state già applicate in Siria, per esempio con il gruppo di Astana, e quindi garantire una soluzione che possa essere più inclusiva e soprattutto non turbare il difficile equilibrio tra Mosca e Ankara. La presenza di forze militari turche è in realtà un nodo che dobbiamo ancora sciogliere, nel senso che non c'è stata ad ora una conferma ufficiale. Aliyev, il presidente azero, ha detto che questa presenza è prevista e che si stanno appunto discutendo i dettagli, però in realtà appunto rimane un grosso punto interrogativo sulla presenza delle forze turche, che sarebbe comunque a livello di immagine della Russia una sorta di sconfitta, perché la Russia si vuole far vedere come l'unico, in fondo, non l'unico, però il mediatore più importante in questa crisi, e invece ci troviamo di fronte a una Turchia la cui importanza cresce sempre di più. E sostanzialmente stiamo assistendo a, come dire, a chi gioca a fare il giardiniere più bravo nel cosiddetto giardino di casa, forse un'espressione che non esaurisce e racconta quella che è l'influenza russa nel Caucaso, ma sicuramente ci dà un'idea di come entrambi le grandi potenze, e così rispondo anche a un ascoltatore che mi bacchetta perché faccio propaganda se chiamo Vladimir Putin lo zar e Recep Tayyip Erdogan il sultano, ma qua io faccio, sono sempre citazioni delle prestigiose copertine dell'Economist, che negli anni si è spesso lanciato in questi paragoni, in queste immagini particolarmente icastiche. Dicevo, comunque c'è un interesse comune da parte di Turchia e Russia su quella che è la zona caucasica. L'ultimo aspetto che volevo brevemente toccare, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo, due minuti con Eleonora Tafuro di ISPI, è quanto è a rischio la sicurezza energetica. Abbiamo ricordato sia il gasdotto che passa in quella zona, che poi diventa TAP nella parte, diciamo, più mediterranea italiana, ma anche un'altra parte di un oleodotto altrettanto importante. La guerra ha colpito questi assetti energetici, e se sì, con quali conseguenze? In realtà la sicurezza energetica europea soprattutto non è stata messa in pericolo nella battaglia, non è stata inficiata in maniera in maniera grave. È evidente che questa zona del Nagorno-Karabakh appunto non è una zona ricca, ma è una zona geopoliticamente molto rilevante per i transiti di petrolio a zero verso l'Europa. Quindi oltre allo status a livello politico, a livello interno e internazionale, oltre al nazionalismo, ci sono anche considerazioni di tipo energetico che guidano appunto la volontà di controllo di quest'area. Però la sicurezza energetica per ora non ha subito dei forti rischi, in particolare in questi ultimi tempi. E forse anche questo conflitto, in qualche modo, in questo conflitto le tensioni nazionaliste, gli appetiti sono stati immolati, si sono spenti di fronte a quelle che sono le grandi infrastrutture energetiche, direi per fortuna europea, anche se il gas che passa di lì in realtà impatta non più di tanto, no? Sulle nostre forniture, però diciamo, per fare un discorso un po' ombelicale, direi meglio così. Non tanto meglio così se guardiamo ancora una volta a questa incredibile muscolare arroganza in politica estera, con tutte le virgolette del caso naturalmente, del sultano Erdogan, così faccio arrabbiare ancora una volta all'ascoltatore. Intanto però grazie mille Eleonora Tafuro Ambrosetti, ISPI, esperta di Caucaso, per averci aiutato a mettere il grand'angolo e a restituirvi questa precisa fotografia. Tafuro, buona giornata, buon lavoro. Grazie, alla prossima. A voi. 349-238-6666, sono tanti i messaggi che sono arrivati. Torneremo a parlare di Nagorno-Karabakh, c'è qualcuno che ci chiede sostanzialmente una sorta di velocissimo bignami su quello che è accaduto e l'importanza del tema. Io vi consiglio, buttate l'occhio al sito di Radio 24, trovate i podcast, c'è il titolo della puntata, abbiamo dedicato ampio spazio veramente alla regione caucasica così importante, dove si fondono esigenze energetiche, esigenze di egemonia geopolitica, Turchia e Russia, e anche istanze nazionalistiche, quelle armene in particolare, che sono state nel corso dei decenni quasi sempre fatte sopire, direbbe qualcuno. A questo punto siamo quasi ai titoli di coda. E che cosa facciamo? Questo è Nessun Luogo Lontano, quindi la nostra missione sostanzialmente è, Roberta Fisani, raccontare. E naturalmente ringraziarvi per essere stati all'ascolto, darvi l'appuntamento a domani ore 16, non prima di aver ringraziato anche tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.